Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, ha un bel dire il portavoce della FIFA, Valke, segretario generale tra l'altro in verità, che non è una sanzione nei confronti della Francia quella di averla esclusa dalle 8 teste di serie per il prossimo mondiale. In realtà, insomma, se non è zuppo e pan bagnato, ci somiglia molto. È stato spiegato che la chiave per l'esclusione dalla Francia tra le prime 8 del mondiale a favore dell'Olanda deriva dal fatto che non si è tenuto conto delle prime 8 al mondo dopo gli spareggi, ma della graduatoria che precedeva quelle partite. All'ottavo posto c'era la Croazia, non qualificata, ma quella posizione è occupata dalla Sudafrica in quanto paese ospitante. Questa è la spiegazione della FIFA. Morale, la Francia è finita all'urna 4 e quindi il sorteggio di sabato, di venerdì sera, con il famoso gioco delle palline in cui Blatter è specialista ormai da anni, avverrà pescando dalle seguenti. In un'urna ci saranno Brasile, Spagna, Italia, Germania, Inghilterra, Olanda e Sudafrica. La seconda fascia, che è quella più debole, sarà Australia, Giappone, Corea del Sud, Corea del Nord, Honduras, Messico, Stati Uniti, Nuova Zelanda. In fascia 3, quella mediana, Algeria, Camerun, Costa d'Avorio, Ghana, Nigeria, Cile, Paraguay e Uruguay. Fascia 4, e cioè la seconda, le seconde forze sono Danimarca, Francia, Grecia, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Svizzera. Ci sarà tempo per arrivare alla vigilia immediata di questo spareggio e per insomma, approfondire altre tematiche che arriveranno in questi giorni, in queste ore, forse anche da Città del Capo, perché l'esecutivo UEFA sta esaminando innanzitutto la questione dei due giudici di porta, ma non solo. Non è esclusa in giornata una sanzione o contro la Francia o contro Henry, al di là di questo colpo di scena di sorteggio nei confronti di una nazionale che è pur sempre comunque vice campione del mondo, ai rigori tra l'altro. Oggi parliamo d'altro e parliamo, per la precisione, già anticipato da ieri, di calcio e televisione, di calcio e telecronache, di calcio e rubriche sportive. È un argomento che in genere so vi interessa in maniera particolare, è stato anche sollecitato a ripetizione, sicché ho invitato in studio, e lo ringrazio per essere qui con noi, Antonio Di Pollina, critico di Repubblica. Buongiorno Antoine. Buongiorno, ciao, eccoci. Dunque, intanto rilassati, che poiché la tua rubrica televisiva del lunedì si chiama Schermaglie ed è insomma da tanti anni un appuntamento, no, dell'indomani, però dato che invece poi c'è la rubrica seria sui fatti televisivi seri, qui ti risparmiamo Santoro e Minzolini, grazie senza complimenti, e mal che vada insomma arriviamo a Mourinho piuttosto che a chissà che. Meraviglioso. Meraviglioso. Volevo farti sentire, preparate dal nostro Franco Piantanida che ha frugato in archivi vari, volevo farti sentire qualche tipologia di telecronaca per arrivare, non dico delle conclusioni, ma per documentare, non tanto a te, che certamente queste cose le conosci, ma al pubblico, quanti siano i modi poi in realtà di fare telecronaca. Allora, ricomincerei da ieri, perché tutto questo spunto nasce dal fatto che abbiamo rimandato in onda, per onorare il pallone d'oro di Messi, la telecronaca originale del cronista spagnolo in occasione di un suo slalom contro il Getafe 2 anni fa in Coppa del Re, che era più o meno la fotocopia di quello che Maradona fece contro l'Inghilterra nell'86. Allora, cominciamo da questo. Messi desde la mitad de la cancha, una corrida excepcional, arranca en diagonal, va por la posición de número 8, se está arrimando al área, hace un regate para afuera, otro para adentro, escapó, se volcó a la derecha, tocó con la derecha, ¡gol! Messi, satélite del planeta inolvidable de Diego Armando Maradona. Leo Messi, un gol para gritarlo en España, para gozarlo en Argentina, para admirarlo en el mundo. Messi, en lo más alto del fútbol mundial. Satellite del planeta inolvidabile di Diego Armando Maradona, meraviglioso. Quando io sento questi exploit, probabilmente